immobile, qual più malvagio, muta d'accento e di pensiero. Sempre una mappine, leggiadro viso, il pianto infliso e menzognero. La donna è mobile, qual più malvento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. E sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core. Pur mai non sentesi felice a pieno, che su qual seno non li va amore. La donna è mobile, qual più malvento,